24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca! Eccoci, eccoci, buongiorno cari ascoltatori, sono le 6:33 minuti, queste 24 mattino, applichiamo come sempre lo schema Allegri. Ah no, lo cacciano, basta, non si può più applicare. No, lo stesso, dai, che sono le 6:30, forza! Cari italiani, agite, svegliatevi, andate a lavorare. Inizia oggi la 37esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché decisiva per l'abolizione delle province. Voi pensate che sia uno scherzo, ma oggi ce l'ho qua, è la pagina del giornale. Dov'è il giornale? Porca miseria, porcaccia Eva. Guardate, il giornale che si nasconde, farabutto. Vabbè, comunque, insomma, sul giornale l'ho postato anche su Twitter, sul mio profilo Alino Milan, c'è questo titolo: è la settimana decisiva per la riforma elettorale. Io non ho più parole. Va bene, voglio salutare Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè è sempre lì in regia. È la settimana decisiva. Voi dite così, svegliatevi davanti a vostra moglie e dite: è la settimana decisiva. Per cosa? Poi andate a lavorare, chi lo sa. Apriamo il Parlamento, dai. Settimana decisiva per il Parlamento. Il caffè volentieri a tutti quanti. Allora, voglio salutare con grande piacere, torna prima volta nel 2014, la capissima della Padania, Aurora Lussana, eccola qua, direttore della Padania. Buongiorno, bentrovata. Buongiorno a te Milan, un caro saluto a te e agli amici di Radio 24, la seconda radio più bella dopo Radio Padania. Ovvio, beh, Radio Padania, anch'io ce l'ho sintonizzata su un padiglione della cuffia, sento Radio Padania mentre parlo a Radio 24. Credo che invece sia la primissima per Alessandro Giglioli dell'Espresso, che saluto, l'unica radio che ascolta Radio Padania, no? Certo, ma io dal mattino alla sera, comunque sempre, anche di notte. Ho un amico che lo fa comunque questo lavoro qua. Come lavoro? Cosa vuol dire? È vero. Che mica è un lavoro, Giglioli. È verissimo. No, c'è un giornalista, è vero. Cioè, cosa vuol dire? Un giornalista molto bravo che... Bravissimo. Posso dirlo io? Sì. E che fa? Si chiama... Che non è un lavoro ovviamente, però che tra le altre cose che fa il monitoraggio di Radio Padania per... segnalare tutti quelli che lui chiama, secondo me ha ragione, sì. Ma immagino che non sia d'accordo, i deliri di Radio Padania. Fa un'opera di fact-checking di tutto quello che viene fantastico, detto. Cioè, avete l'orecchio, Aurora, hai capito? No, non è che lo fa lui, per un freelance, e ogni tanto scrive anche per il sito dell'Espresso, e sì, ha tirato fuori delle chicche meravigliose, ha tirato fuori delle chicche meravigliose sul suo blog. Sì, vabbè, le chicche. Ma chi è? Non leggerlo per caso? No, non è. No, non è. Si chiama Daniele Sensi, si chiama un blog. Sensi, Daniele Sensi, un blog. E vabbè, e Aurora, voi sapete che se Sensi vi ascolta, Daniele Sensi vi ascolta, sì. Certo, come no. Anzi. Lo salutiamo anche spesso. Vuoi fare un saluto a Daniele Sensi? Ma no, lui sta ascoltando Radio Padania Libera, non ascolta voi della concorrenza Radio 24. Penso, effettivamente anche questa è vera. Vabbè, allora, voi pensate che io vi voglia far parlare, poi ne parliamo, di rimpasto, oh, che gran paginate sui giornali. Ma forse per vendicarti della sconfitta del Milan potresti anche farlo. Senti, ascolta, dovevi subito. Perché sei cattivo dentro, allora siccome avete perso col Sassuolo ci puoi parlare di rimpasto. Ma l'abbiamo fatto, io l'ho fatto per favorire Squinzi, è paraculismo, questo è proprio... No, guarda, lasciamo stare il Milan, per favore. Io ti giuro che farò il poster di tutti i giocatori del Milan mega gigante, non me li vorrò scordare uno per uno, questi di questa generazione, di questa squadra, capeggiati da questo grande allenatore. No, allora, il rimpastone, la politica, le cose, una roba, una noia mortale, ma io non sto facendo altro che leggere quello che sta succedendo in Francia. Avete visto quello che sta succedendo? Aurora, sì. Poi parliamo del momento molto alto. Il Golpe Rosso. del golpe del, no, stavo dicendo del momento molto alto di, della Lega, no? Di questo momento. Sì, sì, poi parliamo. Sì, il golpe rosso, sì, certo. Ma la Francia, ma avete visto? Ma adesso andava pure a fare la garçonniere, era pure della mafia, forse. Della mafia corsa. Mamma mia, Hollande. E noi ci lamentiamo delle nostre istituzioni. Andava a incontrare l'amante nell'appartamento, forse della mafia corsa, il presidente francese. Aurora, di qualcosa. No, io capisco che il bunga bunga a sinistra fa sempre molto intellettuale, fa democratico, anticonformista, invece a destra fa sempre un po' vecchio, schifoso, perverso, porco, depravato. Spero che la Repubblica, che l'altro giorno titolava sulla vicenda piemontese truffa Lega, in Piemonte sì. Si rivota, sì. Credo che la Lega sporgerà a breve giustamente querela. Non c'è nessuna truffa, tantomeno della Lega, no? Poi se vuoi ne parliamo. Ecco, mi auguro che Repubblica così racconti queste vicende d'Oltralpe di Hollande, in maniera dettagliatissima, magari con le solite consuete di grande successo 10 domande, perché hai visto, questo qua fa impallidire pure il banana con le sue tricette, quindi insomma addirittura dice peggio. No, ma queste guardie del corpo che portano i croissant col sì, effettivamente la colazione con la guardia del corpo, Giglioni, questa è vera, no, col croissant. Siccome la sua compagna, questa giornalista bellissima, sì. Povera, anche finita in ospedale per queste foto pubblicate da Closa, io credo che debba chiarire, perché i francesi tutti la mantengono all'Eliseo. E adesso c'è il cambio, manterrà un'altra. Sostituzione, cambio, come è? Giglioli, effettivamente dai. Sono sicuro che nei primi pensieri di Hollande oggi ci sia cosa risponderò a Lussana. Con questo incubo. No, dai, però il croissant della guardia del corpo. Ma perché vedi, se c'è una a sinistra va bene. Va bene, ognuno fa quello che vuole, poi se uno fa dei reati, se uno non fa dei reati, se la Repubblica francese lo punirà perché ha una storia, diciamo, extraconiugale, a parte che non era sposato, lo punirà, altrimenti no. Beh, poi tra l'altro nella storia dell'Eliseo, come sappiamo, ci sono figli segreti, no? Destro-sinistra, c'è un'altissima tradizione di lenzuola, diciamo, caldo. Vabbè, allora dai. Insieme Hollande e Berlusconi alle 6 del mezzo del mattino. È anche forte anche per te. Allora Giglioli, allora di subito qualcosa. Allora Lussana, che ha dichiarato il golpe rosso, c'è quello che è successo in Piemonte, cioè una sentenza del TAR che ha annullato le regionali. Certo, devo dire con grande tempismo, devo dire questo, cioè, aspettavano ancora un anno e più o meno non serviva più. Non serviva più niente. Cosa esatto. Però si sapeva già una settimana dopo che le firme raccolte da giovani erano trocche. Cioè, in un paese, diciamo, posso? Sì. Insulta Lussana, se vuoi. In un paese civile, quando c'è un dubbio così forte, così alto sulla regolarità delle elezioni, non è che uno si appiccica né uno fa ricorso né l'altro si appiccica la poltrona, cioè si rifà e basta, vediamo chi vince democraticamente e facciamo le cose pulite se ci sono dei dubbi. Però dicono alla Lega, si sono comportati tutti all'italiana, quello si è appiccicato alla poltrona per 4 anni facendosi portare le mutande a spese nostre, quell'altra si è incrignita su una vittoria che chiaramente non aveva ottenuto, perché comunque era perché era i numeri di voti dicono i leghisti erano a favore di Cotto, talmente schifosa con questo personaggio che si chiama Giovine, che si è messo a raccogliere firme farlocche per presentarsi alle elezioni, per poi tenere uno che aveva già presentato partiti diversi con nomi diversi di categorie, dai pensionati a non so che cosa. Era una situazione brutta in un paese, diciamo, di persone per bene, non dove la politica è intesa come andare a votare, non come attaccamento alla persona, si fa tutto da capo il giorno dopo, no? Si aspetta 4 anni il TAR. Dopodiché adesso cosa vogliamo dire? Il TAR è stato lentissimo, cioè non il TAR, tutto è stato lentissimo. È stato lentissimo. Però il dato di fatto è quello. Ma perché golpe, Aurora? Cosa vuol dire golpe? Cioè adesso quando c'è una sentenza del TAR uno subito dice, in Italia ormai la magistratura appena decide qualcosa basta dire un golpe, una vergogna. Allora, sabato pomeriggio a Torino c'è stata questa manifestazione della Lega, siamo partiti da Via Alfieri fino in Piazza Castello, una manifestazione che non è stata fatta per difendere il governatore Roberto Cota e i componenti della giunta, i consiglieri della Lega del centrodestra. Era per ribadire che si decidono le elezioni nelle urne, ma è nelle aule dei tribunali. O tu fai un controllo ex ante, non ex post, sulle liste, sulla regolarità delle firme, perché sì, anche l'altra lista, pensionati e invalidi per Bresso, è una bella lista di furbetti, sì, tant'è che gli contestano tutti i 12.565 voti. Io personalmente credo che allora dobbiamo ricordarci questo, che se tu ricevi, caro Milan, una licenza per aprire qualcosa, una patente, non è che te la mettono in discussione dopo 4 anni. Noi andiamo in corte d'appello per depositare le liste, sì, lì devono verificare la regolarità o meno. Cioè tu dici o le verificano lì oppure non si può più verificare. No, però l'unica cosa che puoi chiedere ex post è il riconteggio eventualmente. Questo è, questa è una richiesta legittima. Però ho capito, ripeto, ma se uno, cioè se uno si accorge dopo, ma non è che dopo un po' di tempo. La legge, oh. No, vabbè, ma comunque ma se roba uno fa quella roba lì, no, però allora è vero che ci sono state anche altre regioni, ricordo anche in Lombardia c'è stata una sentenza, i radicali hanno vinto, credo, una sentenza per una lista di formigoni, cioè non so firme se è definitivo, false, sì, è di firme false. Cioè, purtroppo è invalso quest'uso di utilizzare delle firme false, perché evidentemente che è una schifezza. Ok, quindi io allora faccio che un si controllo deve preventivo. Quando ammetto una lista, significa che le istituzioni italiane, nel momento in cui ammettono una lista elettorale, le competizioni elettorali, hanno verificato che ci sono tutti i presupposti. Su questo è anche vero, questo è anche ha una parte di verità, voglio dire, se c'è uno che presenta in tribunale una lista, se viene ammessa vuol dire che qualcuno avrà controllato. Allora la Corte d'Appello non ha fatto nessun controllo prima, quindi non è verosimile né legittimo il controllo. Ma se uno invece si accorge dopo, magari in un primo controllo sembrava normale e poi si accorgono dopo che purtroppo allora sono stati allora metti in discussione i voti di quella lista. Ah, non di tutte le regionali. Non tutto il voto popolare. Vabbè, guarda, c'era anche in Piemonte, avevano ammesso la lista padana, che verosimilmente ha rubato un 40.000 voti alla Lega. Cioè, quindi, allora, hanno sempre ammesso liste tarocche, farlocche, ai danni prevalentemente qui al nord della Lega, ma devo dire anche di altre formazioni politiche. O si fa un controllo serio in corte d'appello prima di indire le elezioni, sì, se no il controllo ex post, capisci che poi, vabbè, tu dici, sono squilibrati quelli della Lega, va bene, il golpe rosso, però ripeto, quando ho visto il titolo di Repubblica, truffa Lega, semmai la truffa di questo fenomeno qui di giovine, dei pensionati per Cota, ma non è che la lista pensionati invalidi per la Bresso ha fatto vincere Cota, da meno Cialtronelli, perché questi sono stati condannati. Vabbè, ma non applicarmi il principio craxiano, che siccome, guarda, Miglio diceva non sono l'anno di nessuno, quindi non si può essere craxiano. Vabbè. Giglioli, che deve dire? È bruttina, questa è una storia un po' bruttina. Senti, no, in termini di buon senso, Costana c'ha ragione, però in termini pratici la legge. Tutte le volte che ma perché la legge applicata da magistrati rossi, caro Giglioli, la questa legge si è presentata a un'elezione, ha accettato che si presentassero quelle leggi lì. Ma Milan, quel giorno lì, in Piemonte si rivota. Il complotto, hanno assolto Chiamparino lo stesso giorno. Eccolo lì, Giglioli. Chiamparino. Lo so, è questo Giglioli il complottone. E Chiamparino si candida alla regione, caro Giglioli. Questo è il concetto. Vabbè, riprendiamo tra un attimo. Dai, andiamo a sentire. Io pensavo di scaldarvi più sulle corna di Hollande, invece vedo che è sempre la regione Piemonte. 24 mattino. Milan, mi pare che il governo in questo momento ha ricevuto l'ordine, il famoso ordine che vigeva nella Marina Borbonica. Fascità muina, chi lo che sanno in coppa scende a basso, chi lo che fanno a basso sale in coppa, chi lo che stanno a prora vanno a poppa, chi lo che stanno a poppa vanno a prora. In questa maniera si crea nella confusione l'impressione che ci stia facendo qualche cosa di utile. Qualche settimana fa c'era qualcuno che andava in televisione a dire andremo a contrastare il Movimento 5 Stelle proprio sui loro temi. Fatto sta, giorno 8 ci sono le votazioni alla Camera per il taglio delle pensioni d'oro, cosa fa il PD? Tutto unito e compatto vota contro. Mi fai un piacere, Milan, quando vedi Renzi, glielo spiegate a Renzi che fa parte del PD, perché secondo me ancora lui l'ha capito proprio, guarda. Paga e tasi, paga e tasi, paga e tasi. Ma certi giornalisti sono come i politici, continuano a fabbricare valvole quando siamo nella televisione a LED ormai. Sono arrabbiata veramente stamattina, perché qualsiasi cosa, messaggio lascio, non viene mai fatto sentire. A me mi piace risentirmi, non fare solo messaggi. Volontari italiani, disoccupati, cassa integrati, dai, facciamo un po' di volontariato, puliamo l'Italia ai bordi delle strade, facciamo tutta bella pulita, porca padella, dai, facciamolo! Vabbè, noi parleremo di pensioni d'oro alle 8.15, questa, perché mentre si parla di rimpastoni, rimpastini, effettivamente c'è stata questa decisione, avremo Giorgia Meloni, avremo Taddei del Partito Democratico, questa alle 8.15, state con noi. Intanto Aurora Lussana, Cota è stato trombato, mi sembra di capire, cioè nel senso raccontano tutti che Maroni non vuole più Cota, o non vuole più un leghista, cioè non, insomma, sta storia delle mutande verdi... era un po' troppo, quindi... La vicenda dei rimborsi, sì, lì è ancora tutto da chiarire, qualche certo che insomma in Piemonte aveva dato un bel taglio il costo della politica, cosa poi vabbè, deciderà il segretario federale che è Matteo Salvini, che sabato, come sai, ha bloccato i caselli del nord, non ha pagato il pedaggio, autostradale, pure qual è il reato, in che reato è in corso, rilasciano quel cedolino lì, in realtà è tempo 15 giorni per pagare, oppure insomma, quindi lo paga fiscale, sì, è perché c'è questa discriminazione autostradale, capito, non hanno neanche pagato le autostrade, Giglioli, voi che non pagate il GRA, voi che non pagate. Ma io sono favorevole a mettere un pedaggio sul GRA. Incredibile. Ma perché è un uomo giusto, vedi, è una persona giusta. Lo farei, adesso poi i miei amici qua di Roma oggi mi dicono, però è un tale, anzi più in generale io sarei abbastanza favorevole a qualsiasi forma di tassazione sul trasporto su gomma che piace tanto ai leghisti. Vabbè, insomma. Vabbè, invece avete seguito il caso De Girolamo, vi faccio sentire quest'altro grande tema, che no, ma gli SMS che De Girolamo ha mandato a Mastella, ma vi rendete conto? De Girolamo che manda l'SMS a Mastella, sei un merda, e poi dopo dice scusa, ho sbagliato, ho dimenticato, uomo di merda. ma siamo, chissà se è vero, se così dice Mastella, Giglioli, chissà se è vero che è un uomo di merda. Chissà se è vero, se gliel'ha mandato, fai il bravo anche te. Allora sentiamo sentiamo la Boschi c'è un po' ovunque, su da De Girolamo. Bella, bellissima. Purtroppo è una vicenda un po' triste e mi dispiace molto che siamo appunto a trattare, a parlare di questa vicenda qua. Il PD ha chiesto che venga in aula e so che il ministro ha dato la sua disponibilità a venire a riferire alla Camera, quindi sentiremo quello che ha da dire su questa vicenda. Vabbè, sentiremo, insomma, la dichiarazione. Poi, che c'è da dire? Bella, guarda, subito la polemica di Aurora Lussana, bella. No, scusa, cosa c'entra? Sì, certo, è bella. No, mi piace molto, molto garbata, c'è questa differenza mia, che c'è questa parlata un po' ostica delle valli orobiche, insomma, questa bella parlata. Allora, senti invece Alfano, sentite Alfano che difende la decisione, ovviamente del suo partito, ma pare che sia il primo ministro a rischiare. Noi siamo il paese nel quale c'è stato il Vaffa Day con decine di migliaia di italiani che hanno partecipato, e per un Vaffa registrato fraudolentemente c'è adesso un'indignazione collettiva, cioè il moralismo sulle parolacce gli italiani non credo sì, proprio che... Morale non ci sarà, quindi non ci saranno le dimissioni anche proprio in questa direzione di trasparenza il ministro De Girolamo proprio oggi pomeriggio ha dichiarato di essere prontissimo a riferire in Parlamento. Vabbè, riferire in Parlamento. Caro Giglioli, io quando sentito... Sì. Ma se vogliono fare una legge perché la gente dice le parolacce sul web, facciamo anche una legge contro gli SMS. Sì. Così. Una legge per censurare gli SMS. Vabbè, ma il problema lì non è l'SMS. Voglio censurare la rete perché la gente dice le parolacce sul web. Questa è la prova che il problema non è il mezzo, il problema è evidentemente la la coscienza civile diffusa, l'educazione diffusa, il linguaggio diffuso. Siamo nell'epoca, Alfano l'ha appunto usato lo stile Craxi, come diresti tu, no? Anche gli altri dicono parolacce, c'è pure ragione da questo punto di vista. Non è che sia un politico che oggi sia particolarmente non c'è che ci sia un linguaggio politico che oggi sia particolarmente alto su contenuti, ci si limita a una merda, vaffanculo, stronzo, eccetera, eccetera. Se volete vado avanti tutta la mattina per svegliare i nostri ascoltatori a fondi sul pilocchio. Credo che sia un problema di devastazione morale di questo paese che è abbastanza forte, ma non perché mi indignano le parolacce, ma perché il livello del dibattito è basso. Certo, ma questo è abbastanza. Comunque staremo a vedere che succede. De Girolamo, il caso più trattato sui giornali, lo vedremo in rassegna stampa. Io però voglio fare sentire un audio, soprattutto Aurora Lussana. Chissà, era a Torino, Aurora, abbiamo capito, a manifestare. Chissà se era qui, in mezzo a queste robe qui. Aurora, a Brescia, ma che avete combinato con la Chieng? Ancora la Chieng? No, ma era un... guarda, posso dirti la verità? Come si può pensare che la Chieng sia un ministro a cui fare opposizione? In 9 mesi che è lì non ha prodotto un provvedimento che sia uno, essendo un ministro, non ha scritto nemmeno mezzo disegno di legge, non ha portato all'aula o in commissione nessuna proposta. Sono 9 mesi che è lì a far così propaganda filo-immigrazionista. Io so che a Brescia c'erano dei militanti della Lega così che la volevano contestare. Gli scontri sono cominciati quando sono arrivati gli autonomi con dei migranti che hanno un po' insultato i ragazzi che erano lì al presidio, sai, la solita tensione. Niente di che. Che ci avete con la... Un giorno dovete spiegare. Non fa nulla. Non è riuscito neanche a portare a casa le 24 famiglie italiane in Congo che sono andate. Ma un giorno dovrete spiegare. Un giorno dovrete spiegare bene che fastidio vi fa la Chieng. Io ho un sospetto, del fastidio che vi dà, del perché vi dà così fastidio. Ma non lo voglio dire. Mi devo fermare qui. Vi ringrazio, Giglioli, Lussana. Alla prossima. Dai, è tempo di giornale radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui allora alle 7:15, quasi 16 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, forza! Come al solito applichiamo lo schema dell'allenatore più amato d'Italia, Allegri, schema Allegri, dai! Oggi lo cacciano, tutti i giornali almeno raccontano così, è pronto Filippo Inzaghi. Vabbè, questo per parlare di calcio, perché non credo che ne parleremo molto di più all'interno della rassegna stampa, tanto che c'è da dire di questo sport noioso. Allora, oggi parleremo alle 8:15 di pensioni d'oro, perché avete sentito nella scorsa settimana c'è stato un dibattito, anche una proposta in Parlamento, tagliare le pensioni d'oro. Una questione che ha creato una vecchia questione che ha suscitato anche polemiche parlamentari. Avremo con noi Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Avremo con noi Filippo Taddei, che è responsabile economico della segreteria del PD per le questioni economiche, e avremo con noi anche Franco Abruzzo, che è un giornalista che ha fondato anche un movimento, l'Unione dei Pensionati Italiani, che difende il diritto alle pensioni d'oro, nel senso contributi d'oro, pensioni d'oro, e ha parlato di odio sociale nei confronti del tentativo di tagliare le pensioni d'oro. Ne parleremo più avanti. Ora che si fa? Andiamo a vedere i giornali. In questo lunedì 13 gennaio i titoli, intanto il Sole 24 Ore apre con la Governance Poll 2013, vale a dire il sondaggio che viene fatto ogni anno IPR Marketing con il Sole sull'indice di gradimento dei politici locali. Il titolo è Politici locali, consensi ancora giù, tra i sindaci, chi vince è il sindaco di Pavia Cattaneo davanti al sindaco di Bari Emiliano, mentre giù i big come Marino e Pisapia. Tra i governatori vincono Enrico Rossi della Toscana davanti a Zaia del Veneto e Caldoro della Campania. Questa è la classifica che poi vedremo, mentre la situazione politica è il titolo principale di tutti i giornali. Ora Letta apre al rimpasto, così apre il Corriere della Sera. Per Repubblica, De Girolamo, processo in aula, mentre per il Messaggero, governo, così cambia la squadra. Anche per la Stampa, svolta di Letta, pronto al bis. Il Giornale invece, la coppia scoppia, Renzi e Letta. Per l'Unità, la partita del Letta bis. Il secolo XIX, Letta nella bufera, accelera il rimpasto. Insomma, come vedete, i titoli di prima pagina sono tutti declinati all'attualità politica, con questo tema molto portatore di brividi e di entusiasmo, il rimpasto di governo. Sono certo anche voi condividerete questi brividi mattutini sul rimpasto, sul dibattito per il rimpasto di governo. Voglio iniziare però a leggere da altre cose, magari contestualmente le cose che sono un po' più nell'interesse generale degli italiani. Per esempio, il Corriere della Sera Economia anche quest'anno fa il calcolo insieme alla CGA di Mestre di quanto bisognerà lavorare quest'anno, cari italiani, per pagare le tasse. E poi arriverà il Tax Freedom Day. Ebbene, sappiate che quest'anno va peggio. Evviva, nel 2014 dovremo lavorare 172 giorni, sono due giorni in più rispetto all'anno scorso, per pagare tasse e contributi. Dovremo lavorare fino al 22 di giugno. E dunque 226 minuti, raccontano Massimo Fracaro e Andrea Vavolo, 226 minuti ogni giorno lavorativo dell'anno, dalla mattina alla pausa pranzo fino alle prime ore della ripresa pomeridiana. È questo il tempo che un rappresentante del ceto medio, cioè un quadro con un reddito da 48.644 euro lordi, una moglie e un figlio a carico, dovrà lavorare per pagare tasse, imposte e contributi previdenziali. Tradotto il tutto in termini di calendario, vuol dire che dovrà faticare 172 giorni su 365 per sfamare lo sfrenato appetito dell'erario. Pari a una pressione fiscale che supera il 47% in totale tra imposte e consumi. Imposte su redditi locali e sui consumi, il conto dell'erario arriverà nell'anno appena iniziato a quota 23.187, quasi 2.000 al mese contro i 22.563 del 2013. Insomma, il Tax Freedom Day, segnatevelo sul calendario, da quel giorno, se siete in questa media calcolata la CGA di Mestre, da quel giorno lavorerete anche per mettere un pochino di soldi in tasca. Arriverà il 22 giugno, due giorni dopo il 2013, quando era arrivato il 20 di giugno. Fino al 22 giugno, caro Peter Bescapè. Quindi oggi siamo al 13 gennaio. Il commento di Peter Bescapè è un po' irriferibile. D'altronde, che dobbiamo fare? Va bene. Allora, un'altra vicenda che ogni giorno ha la sua pena, io uso questa parola, sui giornali, è la vicenda del cosiddetto metodo Stamina. Dopo le polemiche che ci sono state per vari mesi su questa cura ideata da Vannoni, da Davide Vannoni, beh, adesso cominciano a fiorire davvero le testimonianze, una dopo l'altra, le testimonianze contrarie al metodo utilizzato da Davide Vannoni. Il vicepresidente di Stamina, questa è l'ultima accusa, il dottore Andolina: i primi pazienti furono scelti raccomandati. In qualche modo rivela un giro di raccomandati ai quali per primi sarebbero stati somministrati le terapie, e c'era interesse di importanti personaggi ad averle per se stessi e per i familiari. Un dirigente della regione Lombardia aveva una malattia neurologica, ha favorito l'ingresso del metodo in ospedale a Brescia. I dirigenti locali avevano fratelli, cognati, mariti bisognosi. Abbiamo deciso di curare prima i raccomandati, così poi saremmo riusciti a far entrare i nostri bambini. Questa l'ammissione del vicepresidente. Ma tra l'altro La Stampa, che è il quotidiano che più continua nell'attacco a questo metodo, o meglio nella, qualcuno potrebbe dire, anche nell'operazione di chiarezza di testimonianze con Paolo Russo, raccoglie un'altra testimonianza, un'ulteriore testimonianza, e la trovate in prima pagina. Mi dissero: per pagare le cure fai prostituire tua moglie. Questo è il titolo dell'intervista. Ci hanno fatto indebitare per 47.000 euro. E quando ho detto non ce la facevamo più a pagare, mi sono sentito rispondere di mandare mia moglie a prostituirsi. Se non fosse per la nota di cattivo gusto, la storia di Nicola De Matteis, una vita a faticare di notte a sfornare pane, sembrerebbe identica a quella delle 68 vittime dell'inchiesta Stamina. Lui racconta come inizia la vostra storia. Mia figlia Nicole nasce con una encefalopatia, assenza di ossigeno al cervello che causa danni irreversibili. Arriviamo a Vannoni perché una nostra amica ha un parente in trattamento Stamina e quando sente che stiamo per partire ci indirizza a lui. Vannoni ci accoglie e mi dice che mia figlia si sarebbe alzata e avrebbe camminato dopo la prima puntura. Balle! Oggi, dopo 4 interventi per distendere i legamenti delle gambe, ancora sulla carrozzina con le mani ricurve e difficoltà a deglutire. Vannoni ci indicò un medico che però, dopo aver sentito che Nicole era in trattamento a Regina Margherita, si irrigidisce e non prescrive più nulla. È stato un inizio traumatico. A Trieste addirittura le hanno fatto la prima infusione senza anestesia, la dovevano tenere in 4. Qualche piccolo miglioramento nel tempo c'è stato, ma mi ha spiegato che dipende dalla riabilitazione, il nuoto, la crescita naturale della muscolatura, non certo da quella roba lì. Al che Paolo Russo chiede: ma allora gli avete creduto? Io no, ho avuto subito l'impressione di essere davanti a un imbroglione. Dicevo a mia moglie: ma se questa cura è così miracolosa, perché lui dopo il trattamento ha ancora la bocca distorta? Ma le madri, si sa, farebbero qualsiasi cosa per i figli, e così abbiamo pagato. E ma che donazione! Vannoni ci ha presentato un vero tariffario, indicandoci la società alla quale avremmo dovuto effettuare il bonifico, in tutto 47.000 euro. Abbiamo versato per un carotaggio all'ospedale di Como, direttamente alla struttura, poi abbiamo fatto 2 infusioni all'ospedale di Trieste, 4 ai civili di Brescia. Erano somme: 2.000 per il carotaggio, 27.000 per la coltivazione delle cellule in laboratorio, più 9.200 euro per ciascuna infusione. Alla fine, sa cosa mi ha detto il dottor Andolina, cioè quello che è il vicepresidente citato prima? Quando gli ho chiesto e gli ho detto che non ce la facciamo più a pagare, non le dico la risposta. Mi rispose: faccia prostituire sua moglie, e mi attaccò il telefono in faccia. Questa è la testimonianza che trovate su La Stampa, sul metodo Stamina. A proposito di testimonianze, oggi il Corriere della Sera ha una testimonianza interessante che raccoglie Giovanni Bianconi dal carcere. Parla per la prima volta l'ex governatore della Sicilia, Totò Cuffaro, che è in carcere per associazione esterna alla mafia, sta scontando la condanna. Sono andato a sbattere contro la mafia, ho sbagliato a frequentare certe persone. È una pagina molto intensa che trovate a pagina 21, nella quale Cuffaro parla un po' di tutto. Da presidente della regione di carcere mi sono occupato meno di quanto avrei dovuto. Da qui però c'è un'altra prospettiva. Da qui dico che di certe leggi che ho votato come senatore mi vergogno, perché in nome della sicurezza abbiamo varato norme troppo restrittive. Il carcere non è solo luogo di corpi, ma di anime, di uomini con le loro storie, le loro speranze, delinquenti, d'accordo, che però hanno diritto a avere una nuova possibilità. Ecco perché l'indulto chiesto dal presidente Napolitano sarebbe auspicabile. Cuffaro, tra l'altro, parla del fatto che gli è stata negata dai giudici di sorveglianza la concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Non ho ancora capito cosa potrei dire. Sono l'anello di una catena di condannati. Mi ero illuso. Vorrà dire che avrò il tempo di laurearmi in giurisprudenza e scrivere un terzo libro. Ma comunque non mi lamento. Confidavo che fosse possibile. Magari ora farò ricorso. Non per me, che probabilmente finirò di scontare la pena prima dell'ultimo verdetto, ma per altri ai quali sarei lieto di offrire una nuova possibilità. E poi ancora parla di Silvio Berlusconi, Totò Cuffaro, perché scrive l'articolo, nell'articolo Giovanni Bianconi, il paragone e il parallelo è inevitabile. 3 anni fa, quando arrivò la condanna, Cuffaro si presentò in una caserma dei carabinieri e ora dice: io nei confronti di Berlusconi continuo a nutrire l'affetto di sempre, ma credo che avrebbe dovuto comportarsi diversamente. Doveva lasciare la carica senza aspettare che il Senato dichiarasse la decadenza, e adesso dovrebbe scontare la pena in carcere senza chiedere affidamento in prova né altro. Per rispetto della sentenza, e perché anche sentendosi perseguitato sarebbe la migliore risposta. Volete mandarmi in galera? Ci vado, ma capisco che il carcere è pesante. E poi sui rapporti con la mafia, sentite cosa risponde Cuffaro: io non ho avuto rapporti con Cosa Nostra, ci sono andato a sbattere, e in Sicilia può capitare. Io non volevo certo aiutare la mafia, come non credo lo volesse il mio amico Mannino, già assolto una volta dopo tanto carcere preventivo e oggi sotto processo per la trattativa. Ricordo che mi commissionò manifesti in cui incitava a contrastare i boss, costi quel che costi, c'era scritto. Pure lui, Cuffaro, tappezzò la Sicilia con lo slogan «La mafia fa schifo», ma non si rivelò una grande idea. Un altro errore? Cuffaro sorride. Comunque non è facile dire quella frase quando la mafia è ancora lì. Vabbè, insomma, è una pagina di riflessioni, di sfoghi, di pareri, ma anche di poche lamentele di Totò Cuffaro, che dice: «Io comunque ora la pena la finisco in la sconto tutta in carcere. Posso pensare che i magistrati abbiano sbagliato, ma non posso contestarli», così dice Cuffaro. «Avessi ritenuto che il sistema fosse squilibrato e ingiusto, avrei dovuto combatterlo prima, non adesso che sono chiamato a pagare le conseguenze. Non è che siccome la magistratura mi ha messo alla sbarra, ora posso sputarci sopra. Non sarei credibile e né sarebbe giusto». Così parla Totò Cuffaro. Ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. E allora, eccoci qua, la politica, oggi il tema principale della politica sui giornali è il rimpasto, il rimpastone, il Letta bis, Letta, il Premier Letta è in Messico, a Città del Messico, è arrivato ieri, è arrivato con l'eco dell'intervista che Matteo Renzi ieri ha fatto al Corriere della Sera, nella quale ha detto: Letta non si fida di me. E, ecco subito sul Corriere la risposta: Letta, mi fido di Matteo, lavoreremo bene. Per la prima volta, fa sapere il Corriere della Sera, apre, o meglio non chiude, al rimpasto di governo. Ogni decisione però è rinviata dopo il 16 gennaio. Ecco, il 16 gennaio, giovedì, credo che ci sia la direzione del Partito Democratico. Lo so che voi a fare le vostre colazioni siete molto appassionati di queste cose, magari non capite molto i tempi della politica, ma insomma è così. Certo, a me sembrava questa mattina di essere ripiombato quando ero bambino e c'erano quei grandi discorsi sul rimpasto di governo e c'era la Democrazia Cristiana al governo, no? Sembra un po' quei tempi lì, tanto che quando ho fatto questa riflessione, subito dopo ho sfogliato una pagina di Repubblica: 20 anni fa spariva la Democrazia Cristiana, mezzo secolo di potere, la diaspora non è finita. Sebastiano Messina fa un bel pezzo che vi raccomando, una pagina su Repubblica, pagina 9, da quando nel gennaio del 94 Martinazzoli fondò i Popolari. Ecco, 20 anni fa, sono passati 20 anni, è davvero scomparsa la Democrazia Cristiana? Ma chi lo sa. Comunque il dibattito è questo sul rimpastone. Il Premier apre a Letta bis, anche pagina 5 della Stampa. Alessandro Barbera, inviato a Città del Messico: comunque lo si chiami, un governo in cui le caselle più importanti potrebbero cambiare volto, e allora i bookmakers della politica danno già in uscita. Certamente Zanonato, Giovannini, De Girolamo, ma sarebbero in bilico anche Cancellieri, Sacco Manni e Bonino. Questo almeno secondo la Stampa. C'è da dire che adesso paradossalmente la reazione di Matteo Renzi pare contraria a questo tipo di idea. nella retroscena di Maria Teresa Meli. A pagina 5 del Corriere della Sera, il leader PD insiste per la svolta radicale, non ci interessa sostituire ministri, l'idea di Matteo Renzi è che questo rimpasto sia un tentativo per in qualche modo sbloccare una situazione, ma non sbloccarla radicalmente, tanto che Matteo Renzi avrebbe detto ai suoi, secondo il Corriere, chi parla di rimpasto è un cretino, è una voglia che non capisco proprio. Un rimpasto viene fatto per cercare di imbrigliare il segretario, fa sapere il Corriere, e costringerlo a sostenere il governo a tutti i costi. A noi non conviene, dice ancora i suoi Renzi, ma lui, cioè Letta, lo farà, vedrete. Io sono altro rispetto a Letta e ad Alfano, posso farci un accordo, ma non sono come loro e vorrei che questo fosse chiaro. Insomma, ancora Matteo Renzi, niente vecchie liturgie. Questa è l'idea, dunque, questo rimpasto pare già impallinato politicamente parlando dallo stesso Renzi. Chi è sicuramente sulla graticola più di tutti è il ministro Nunzia De Girolamo. Sono da giorni le polemiche che si inseguono dopo le pubblicazioni sul Fatto Quotidiano di alcune intercettazioni ambientali fatte da un ex dirigente della ASL di Benevento che poi è stato rimosso. No, la vicenda del bar dell'ospedale di Benevento, quella frase molto spiccia del ministro, che non era ancora ministro a quell'epoca, cioè mandiamogli i controlli e vaffanculo, per la quale De Girolamo si è scusata per il linguaggio dicendo però a casa mia parlo come credo, non sono indagata, queste intercettazioni erano illegali. E sta di fatto che sui giornali la vicenda è la vicenda che prende più spazio. De Girolamo rischia di pagare per tutti, questo è il titolo di pagina 3 del giornale. Il PD punta la ministra del nuovo centrodestra per indebolire il premier. Alfano dice Letta e Renzi non scaricano sugli italiani i loro nodi. Sta di fatto che De Girolamo ieri ha fatto una nota, come fa sapere il Corriere, a pagina 8. Basta linciaggio, sono pronta e più che disponibile a chiarire al più presto in Parlamento gli aspetti di una sconcertante vicenda che mi vede sottoposta a un linciaggio mediatico senza precedenti, pur non essendo io coinvolta nell'indagine. Sono pronta a difendere con tutte le forze che ho in corpo la mia dignità e la mia onestà. De Girolamo, fa sapere il Corriere, dovrà spiegare questo scenario di scambio di favori, nomine, consensi elettorali rimaste incise in registrazioni compiute a sua insaputa dall'ex direttore amministrativo della ASL Felice Pisapia. Intercettazioni che ora sono depositate in un'inchiesta che, ribadisce anche il Corriere, non la vede tra gli indagati. Su tutte ci sono le pressioni per far concedere a suo zio il bar dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Benevento, pilotando controlli per far fuori il gestore rivale. Oppure c'è anche in discussione l'assegnazione dell'appalto da 12 milioni di euro per il servizio 118 per decidere dove ubicare i presidi ASL. De Girolamo parla di macchina del fango, sta di fatto che chi in questo momento sta vivendo un momento in cui gongola quasi è Clemente Mastella, tra l'altro anche perché fa sapere il Fatto Quotidiano che il dirigente che ha intercettato in maniera ambientale appunto i colloqui con De Girolamo pare che sia un ex mastelliano, un ex dirigente mastelliano. E ecco Clemente Mastella che ieri ha fatto sapere su tutti i giornali di aver ricevuto l'SMS d'annunzia De Girolamo con scritto «Sei una merda». Così il ministro De Girolamo, almeno giura Clemente Mastella, ha spedito un SMS e Clemente Mastella l'ha fatto sapere a tutti. Ha comprato i miei fedelissimi e si salva solo perché ha sposato Boccia del Partito Democratico. Così Mastella interviene intervistato da Repubblica, pagina 2. La signora ministro mi accusa di sciacallaggio, io vado oltre, da politico di altra scuola mi rivolgo al segretario Renzi. Matteo, perché non parli di questa storia? Non mi dirai che il motivo è che Francesco Boccia, marito del ministro De Girolamo, si è schierato con te alle primarie? Così Clemente Mastella, che racconta Repubblica, non sembra di poter diventare il censore, non più il processato. È una battaglia di civiltà, sentite Mastella, ho sempre detto e ripeto, se è previsto che la politica indichi un nome e indichi i dirigenti, lo faccia, se non si può allora cambiamo le leggi. Non è che io e mia moglie siamo stati massacrati, solo noi perché io sono contento se di altri non si vedono cose ben consistenti, sono contento per loro. Prenda il sindaco De Magistris, e poi Mastella dunque se la prende con lui, aveva messo nello staff del vice sindaco anche la compagna del suo assessore Realfonso, due al prezzo di uno, come il Dash. Poi, cacciato via Realfonso, ha cacciato anche la compagna. Tutto negli atti, se l'avessi fatto io sarei andato in galera. E poi racconta anche di queste SMS. Si aspettava che la De Girolamo le chiedesse scusa. E come potevo? La seconda parte dell'SMS, prima mi ha scritto sei un merda. E poi nella seconda parte mi ha risposto: ho detto sei un merda, ho dimenticato un uomo di... Vabbè, questo è quello che è volato via SMS, secondo Mastella, tra De Girolamo e lui. Tutti i giornali, anche il Secolo XIX, pagina 3, mette Nunzia e Francesco, la love story tra casa e potere, così come gli altri giornali mettono in risalto il racconto, insomma, di Nunzia De Girolamo, anche intrecciato, si intreccia con il PD perché è sposata con Francesco Boccia del Partito Democratico. Su questo risponde in maniera secca Roberto Speranza, capogruppo del PD alla Camera, intervistato dall'Unità, pagina 3, da Maria Zegarelli, a domanda precisa: vi crea imbarazzo il fatto che De Girolamo sia la moglie di Francesco Boccia, uomo di punta del Premier? Nella maniera più assoluta no. Per noi conta la politica e il merito delle cose. Tanto che Speranza nell'intervista dice: è un caso imbarazzante quello di De Girolamo, siamo stanchi dei problemi personali dei ministri. Vabbè, l'inchiesta intanto continua. Ci sarà o no il rimpasto di governo? Anche Franceschini si spende in un'intera pagina, pagina 3 del Messaggero, in un'intervista, intervistato da Barbara Jerkov. Tema, ripeto, che sta animando tutte le colazioni degli italiani: il rimpastone, vero caro Mauro Meazza? Buongiorno Mauro, come va? Buongiorno, buongiorno Alessandro. Anche tu ti sei svegliato oggi, croissant, cappuccio e rimpastone di governo. Sì, poi stavo considerando che le vicende coniugali o extraconiugali, dalla Francia all'Italia, insomma, è un Francia. Momento infelice. Quella è bella Francia. Della Francia, quella è bella della Francia. È bello quando succede un po' anche agli esteri, diciamo, no? Una consolazione da poco, però insomma sempre una consolazione. Allora io, Mauro, non è un caso che i politici locali abbiano una crisi di consensi come scriviamo noi oggi. Infatti oggi la classifica, io ho detto solo le prime posizioni, ma insomma è il sondaggio che fate ogni anno, no? Il sondaggio del Sole 24 di ogni anno, il consensus, cioè insomma gli si chiede: vabbè, ma se si votasse oggi, il vostro governatore, il vostro sindaco vi piacciono ancora? Piacciono meno, insomma, fatta qualche eccezione, piacciono tutti un po' meno, è un peccato, ma è così. E d'altra parte lo commenta bene Folli, dice qui, tra gli scandali, l'incapacità di intervenire, specialmente da parte regionale, insomma, di essere efficaci, pesano. E poi Minimu, mi raccomando, studia, il 24 gennaio ci interrogano. Sì. Non tutti, Tu non sei tutti, preparato, però, lo so io, il problema io sono io. Non sono preparato, ma leggendo il Sole 24 Ore tutti i giorni, insomma, qualche cosa comincio a capirlo. Attenzione agli importi. C'è questo bell'articolo di Domenico Berardi, di Cristiano Dell'Oste, non so perché mi è venuto questo nome di Domenico Berardi, che non conosco. Non è un collega, non mi pare. No, non è un collega, non conosco. Gli farei un contratto comunque, sicuramente. Comunque, anch'io al Milan, anch'io. E questa Minimu, scherzi a parte, è molto importante verificare anche se è dovuto o no al versamento, perché sotto i 12 euro la legge statale dice che non si paga, però il comune potrebbe aver detto qualcosa di diverso, insomma è un pasticcio notevole e bisogna esserci un po' preparati, pensarci non magari all'ultimo momento, giorno per giorno. Oggi diamo una pagina, domani daremo altre indicazioni ancora e mercoledì una guida tutta dedicata a questa mini IMU, la coda dell'IMU prima casa. E questo è quanto. Poi i pagamenti la PA sono invece in ritardo, lo scriviamo oggi sul Sole, non pagano né a 30 né a 60 giorni in 6 casi su 10. Tu mi dirai, e dov'è la notizia? Noi siamo qui a misurare, non possiamo raccontare cose che ci piacerebbe raccontare, ma come dire, dobbiamo dire quello che vediamo. Una buona notizia. Comunque, come sempre, Mauro, anche tu avanti con lo schema Allegri, eh? Dai! L'unico schema conosciuto da Allegri, anche se lo cacciano. Hai visto che lo cacciano, sei contento? No, io non no. sono particolarmente contento, anzi ero abbastanza un sostenitore di Allegri e non lo dico per motivi perché, così di fonda del naviglio. Chissà comunque perché. Domani do questa inchiesta sulla Minimo di Berardi. No, scusa, mi viene sempre questo nome, non capisco perché. Anche ieri risuonava abbastanza spesso. Vabbè, sei un maledetto, ti saluto e ti ringrazio e ci sentiamo domani. Stasera c'è Inter Chievo. Vediamo se domani toccherà a te. Ridi. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Allora, ci sono delle discussioni, degli articoli interessanti sul tema immigrazione oggi, il rapporto con l'immigrazione. Vorrei cominciare da Angelo Panebianco, in prima pagina del Corriere della Sera, il titolo è L'accoglienza e la convenienza, troppe ipocrisie sugli immigrati. Scrive Panebianco: la richiesta di Renzi di inserire la riforma della Bossi-Fini tra i temi del contratto di governo potrebbe essere un'occasione da cogliere per dare basi più razionali alla nostra politica di immigrazione. Dobbiamo solo limitarci a tamponare e contenere i flussi migratori o abbiamo bisogno di interventi più attivi e soprattutto selettivi? Racconta Panebianco che sono due i criteri per i quali si identificano le politiche dell'immigrazione: la convenienza oppure l'accoglienza. Le ragioni della convenienza sono note: abbiamo bisogno di contrastare l'invecchiamento della popolazione, abbiamo bisogno di forza lavoro aggiuntiva, di nuovi consumatori. L'appello all'accoglienza ha una chiara invece origine ideologica, nasce dalla confusione propria di certi cattolici, anche da un bel po' di laici, tra la missione della Chiesa e i compiti dello Stato. Ma l'accoglienza, fa sapere Panebianco, non può essere certo il criterio ispiratore di una politica seria statale, perché si scontra con l'ineludibile problema della scarsità. Quanti se ne possono accogliere? Qual è il tetto massimo? A chi e a quali compiti toglieremo le risorse? Cioè, quante risorse potremmo mettere a disposizione dell'accoglienza se la vogliamo decente? Ed ecco allora che, secondo Panebianco, l'unico criterio su cui è possibile fondare una politica razionale dell'immigrazione, per quanto arido o meschino possa apparire a coloro che non apprezzano l'etica della responsabilità, è dunque il calcolo della convenienza, e vale di più della nostra convenienza. Una volta adottato con franchezza, ci consente di porci il problema di come selezionare gli immigrati. È evidente che se usiamo il criterio dell'accoglienza, invece, non possiamo selezionare. Dunque, Panebianco dice e scrive: una politica razionale seria di uno Stato si basa solo sulla convenienza. Quanti immigrati possiamo ospitare e che tipo di professionalità di questi immigrati? Questo è l'articolo, l'editoriale di prima pagina del Corriere, così come invece è di altro tenore un articolo di cronaca che c'è in esclusiva su Repubblica, ma fa davvero impressione perché corre dato anche da foto. L'articolo in prima pagina di Carlo Picozza: ecco il ghetto degli immigrati nascosto nel cuore di Roma. Da 3 mesi sono a centinaia in una casa occupata, senza luce né acqua. Lampedusa, scrive Repubblica, è al civico 3 di via Curtatone, Roma Centro, insieme con un pezzo d'Africa subsahariana. Nella vecchia sede dell'ISPRA, l'Istituto per la Protezione Ambientale, più di 450 eritrei, profughi, rifugiati politici per lo più, sopravvivono con una 50ina di bambini. Dormono in terra, nei corridoi, nelle stanze ufficio piene di polvere insidiate dai topi. Asserragliati dietro la cancellata appena nascosta dallo sporco sulla vetrata, si danno il cambio 40 alla volta in difesa di quell'avamposto della disperazione nel cuore della capitale. Vivono da 3 mesi e mezzo lì, a 2 passi dalla stazione Termini, e dicono: abbiamo un tetto letto, ho dormito in strada per un anno, alcune delle testimonianze, per mangiare andiamo alla mensa della Caritas qui vicino e non intendiamo sloggiare da qui. Davvero una vicenda incredibile nel cuore di Roma, sono due pagine di Repubblica poi che testimoniano questo racconto, il ghetto per immigrati nel cuore di Roma, dormiamo per terra, senza acqua, senza luce, sono molti dei superstiti di Lampedusa rifugiati in questo palazzo abbandonato vicino alla stazione Termini di Roma. In tutto questo, che dire? A me dite quello che volete, ma appassiona molto il caso Hollande. Quanti articoli sui giornali? Sì, lo so, è un po' di gossip, ma ragazzi, ma in Francia non si parla d'altro. Presidente francese beccato dal settimanale Closer, molto probabilmente era lui, quasi sicuramente era lui, nonostante un casco che gli ha coperto la testa all'uscita da un portone, è andato a incontrare l'amante, la presunta amante, l'attrice Gaillet, e la sua consorte o la Premier Dame è finita esaurita in ospedale per questa notizia, e poi adesso aggiungete il fatto che è andata a incontrare l'amante nella garçonniere, probabilmente quell'edificio dove ha incontrato quell'appartamento apparteneva alla mafia corsa, ma c'è da scrivere proprio un romanzo di questa vicenda incredibile. Tutti i giornali dedicano due pagine, addirittura c'è un'intervista a pagina 13 del Corriere di Stefano Montefiori a Ernesto Mauri, che è amministratore delegato di Mondadori, ma è anche il presidente di Mondadori France, e con lui insomma che è l'editore di Closer, il settimanale di gossip che ha pubblicato tutte le foto, e dice: mi hanno avvisato. Mi sono comportato come sempre, l'unica preoccupazione era ottenere la certezza che stavamo documentando una cosa vera, ho chiesto di fare tutte le verifiche possibili, di vedere il servizio, mi è sembrato un servizio molto convincente, c'era la guardia del corpo perfettamente riconoscibile, c'era Hollande col casco, ma si capisce che è lui, ci sono gli orari con gli scatti. Ormai da un anno si vociferava della relazione tra François Hollande e Julie Gaillet e adesso mancavano le prove. Ho chiesto ai giornalisti di non pubblicare chiacchiere, ma le prove, e queste prove ci sono. Nell'intervista di Stefano Montefiori, dunque, c'è anche un pezzo d'Italia, l'amministratore delegato di Mondadori, presidente di Mondadori France, Ernesto Mauri, dietro questo scoop, e la moglie, la compagna di Hollande finita in ospedale. Vabbè, ma c'è tutto, c'è la mafia corsa, vabbè, mettete tutto, c'è il feuilleton tra rosa e il noir, e insomma in Francia non si parla d'altro. Allora, sì, è arrivata, cari amici burloni che mi scrivete, la Gazzetta dello Sport è arrivata, cari burloni, caro non leggerlo, è arrivata la Gazzetta dello Sport, tu che ironizzi, e il titolo è: Berardi affonda Allegri, che oggi molto probabilmente verrà sostituito, ci sarà al suo posto Filippo Inzaghi, perché c'è questa cosa qua, siccome faceva gol adesso sa fare l'allenatore, ma chi lo sa, ma chi se ne frega, insomma, vabbè, comunque questo è il dato di fatto. Detto questo, siamo al momento conclusivo, siamo al momento della carta costa, siamo al momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali, e siamo sul Giornale, dove trionfa pagina 18, un'intera pagina per dire che c'è la rivincita della frutta secca, fa dimagrire e allunga la vita, Patricia Tagliaferri, la frutta secca non fa male, non fa ingrassare, evviva, evviva la frutta secca, ma chi se ne frega poi, questo non se lo dimenticano, non se lo ricordano mai, che la carta costa, e pazienza, Giornale Radio. Il medicinale Boiron per i sintomi influenzali è numero uno in Francia ed è presente in 60 paesi del mondo. Milioni di persone lo utilizzano ogni anno. È un medicinale omeopatico utilizzato da adulti e bambini. Parlane con il tuo medico e il tuo farmacista. Sintomi influenzali? Scegli l'omeopatia. Laboratoire Boiron, leader mondiale dell'omeopatia. Corriere della Sera presenta Barenboim, il mio Beethoven. Tutti i concerti e le sonate per pianoforte di un compositore leggendario, in una magnifica interpretazione. È in edicola il primo CD a solo 6,99 euro. siamo stati alluvionati. L'azienda era compromessa. Un fiume di fango, detriti. Altezza un metro. 150 motori distrutti. L'assicuratore mi dice chiamala Belfor. Grazie anche a loro. Non c'è più traccia di quello che è successo. Belfor è leader nel recupero dopo alluvioni, incendi e inquinamento. Ha creato PIA, pronto intervento azienda. Priorità di intervento in 24 ore e formazione del tuo personale. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro? Scegli Belfor. Ciao Marco, vieni a mangiare? Scusami, non posso, ho una montagna di lavoro. Strano, non mi sembra che tu stia lavorando. Ti sbagli, questo è un tablet Dell. Un tablet che ha la potenza di un portatile, e forse di più. Bello, ma non parlavo del tuo tablet Dell. Mi sembrava che tu stessi giocando a una corsa automobilistica, o mi sbaglio? Ah sì, è per una ricerca. Tablet Dell, perfetti per il lavoro, per il gioco o per qualunque cosa tu voglia fare. Vai su Dell.it, chiedi al tuo rivenditore di fiducia, scegli un Dell, dando in permuta il tuo vecchio PC, ottieni un rimborso fino a un massimo di 150 euro. Windows 8.1 Pro, pronto per il business, pronto per la vita. Accendete il vostro business con Gruppo Next, i professionisti del cambio merce. Acquistiamo prodotti e li trasformiamo in campagne pubblicitarie in Italia e all'estero. Una grande opportunità, il vostro magazzino in cambio di pubblicità. Tutto questo con Gruppo Next. Visita pubblicitaincambiomerce.it. Non confonderti. Opel Mokka è il SUV 4x4 dell'anno in Germania. Nuovo Opel Mokka 2014. Completo di tutto a 16.900 euro. Oggi anche GPL Tech. Sabato e domenica. Pronti con i reattori. Reattori attivati. Go! Scopri la connessione supersonica di Fastweb. C'è chi naviga e chi vola anche in internet. A 25 euro al mese. Fastweb. Immagina. Puoi. Info su fastweb.it, punti vendita o chiama il 146. Le 7.58. GR 24, il sole 24 ore. Golden Globe, la grande bellezza di Paolo Sorrentino, miglior film straniero. Svolta di Letta, pronto a un rimpasto, il ministro De Girolamo riferirà in Parlamento. Francia, la coppia scoppia, Madame Hollande in ospedale, gli incontri in casa del boss. Calcio, bene Juventus e Roma, il Milan travolto dal Sassuolo, Allegri in bilico. Buongiorno dalla redazione e da Valeria De Rosa. In apertura, la vittoria ai Golden Globe della grande bellezza di Paolo Sorrentino, miglior film straniero. And the Golden Globe goes to La grande bellezza, The Great Beauty. Thank you to Italy, that's a crazy country but beautiful. Thank you very much. Ha ringraziato anche l'Italia, un paese strano ma bellissimo, così lo ha definito il regista italiano Paolo Sorrentino, ritirando il Golden Globe come miglior film straniero, riconoscimento conferito dalla stampa estera ad Hollywood, considerato l'anticamera degli Oscar. Dal 1989, ossia dai tempi di Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, l'Italia non vinceva un Golden Globe, ma la grande bellezza di Paolo Sorrentino ce l'ha fatta. Dopo essersi già aggiudicato il premio per miglior film, miglior regia, miglior attore a Tony Servillo, agli EFA, agli Oscar europei, la grande bellezza ottiene così. 24 mattino. Siamo qui alle 8 e 16 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, oggi se guardate i giornali e parlate, vi appassionate della politica, scoprirete che la politica di oggi si interroga sulla necessità del rimpastone di governo. Mamma mia, una cosa che mi fa rimpiombare quando ero piccolo e c'era la Democrazia Cristiana al governo. E quando si voleva fare una svolta o una presunta svolta di fronte alle impasche, si faceva un bel rimpasto di governo. Vabbè, per carità, mettiamo da parte questa vicenda che sono certo farà venire anche molti brividi agli italiani per la tematica e per il grande fervore della tematica. Parliamo di una cosa un po' più concreta, vale a dire le pensioni. In particolare ci concentriamo su quello che sono gli attacchi e comunque le critiche a quelle che vengono definite le pensioni d'oro. La scorsa settimana, un po' in sordina, sono arrivate diverse mozioni in aula, tutte respinte per la verità, per cercare di attaccare quel sistema che prevede che alcune persone, non sono molte in Italia, che hanno pagato con il vecchio sistema retributivo, che ha determinato una forbice molto alta tra quello che hanno versato e quello che poi ottengono come pensione. Ecco, sono stati dei tentativi per mettere mano a questi cosiddetti diritti acquisiti per poi ridistribuirli un po' a tutti, attaccare le cosiddette pensioni d'oro. Chi sicuramente ha cercato, inutilmente perché la mozione non è stata respinta, ma credo voglia fare un appello forte anche al Partito Democratico, e lo ha fatto, è stata Giorgia Meloni, che è capogruppo dei Fratelli d'Italia alla Camera. Buongiorno onorevole Meloni e benvenuta. Grazie, buongiorno a voi. Eccoci qua. Tra l'altro voglio salutare, faccio salutare anche Franco Abruzzo, che è presidente dell'Unione Nazionale Pensionati per l'Italia, anche consigliere dell'Ordine dei Giornalisti in Lombardia, uno storico presidente anche dell'Ordine. Buongiorno Abruzzo. Buongiorno, buongiorno all'onorevole Meloni. Allora, onorevole Meloni, voi intanto mi faccia capire, secondo lei una pensione d'oro, di cosa stiamo parlando, per capire come cifre, Ma guardi, se nella proposta di Fratelli d'Italia noi riteniamo che siano pensioni d'oro tutte quelle al di sopra dei 5.000 euro per le quali non sono state pagati i contributi corrispondenti, nel senso che se uno prendesse 8.000 euro di pensione ma avesse pagato i contributi corrispondenti per prenderla, al mese parliamo, parliamo sempre di mensili, certo. Io non la considererei una pensione d'oro perché sono soldi suoi, ma se uno prendesse 10, 15, 20 mila fino, noi sappiamo perché in Italia esistono drammaticamente, a 90 mila euro al mese e non avesse pagato i contributi corrispondenti, io considererei la parte che eccede i 5 mila euro, diciamo così, un sopruso, se si calcola che noi abbiamo milioni di persone che stanno lavorando e che lavoreranno tutta la vita e che andranno in pensione ben oltre i 70 anni e che avranno indietro dallo Stato neanche tutto quello che hanno versato e che a pensioni di questo tipo non potranno arrivare mai in nessun caso e che quindi stanno di fatto pagando le pensioni di qualcun altro. Quindi voi allora, vorreste che cosa? Sopra qui a chi non ha più di 5.000 euro? Noi vorremmo il ricalcolo con il sistema contributivo, quindi con il sistema che è in vigore adesso per tutti gli italiani, sopra la parte che eccede i 5.000 euro, quindi non tocchiamo le pensioni fino ai 5.000 euro, sì. Per la parte eccedente o si sono versati i contributi o la parte che eccede si taglia, perché vorremmo aiutare le pensioni minime e le pensioni di invalidità. Ma sa che tra l'altro di recente io ho avuto ospite l'onorevole Gutgeld, che è uno dei consiglieri economici di Matteo Renzi, il quale ha detto è un po' la proposta anche del Partito Democratico, ovviamente chissà del Partito Democratico che verrà magari. Guardi, non, purtroppo non mi sembra per ora, nel senso che io ho fatto anche un appello a Matteo Renzi e ne ho fatto uno a Beppe Grillo, ritenendo Renzi per un fatto generazionale e Grillo per, insomma, no, queste battaglie anticaste, due interessanti interlocutori su un tema di questo tipo. Io pensavo che si potesse, penso ancora, spero ancora che si possa su questo costruire una inedita alleanza, dimostrare che qualcosa sta cambiando, che si possono votare delle proposte anche se le ha fatte un avversario, se sono proposte giuste e credibili. Purtroppo il Partito Democratico si è completamente chiuso a riccio e ha approvato una mozione ridicola secondo la quale in realtà si sarebbe già intervenuto sulle pensioni d'oro con quel prelievo di solidarietà ridicolo, peraltro già dichiarato in costruzione dalla Corte Costituzionale, che è stato messo nella legge di stabilità. No, ce l'hanno rimesso paro paro, ben sapendo che glielo ribocceranno per far finta che fanno qualcosa. E devo dire, sono anche delusa dal Movimento 5 Stelle, che pure non ha votato la mozione di Fratelli d'Italia e che ne ha presentata una, secondo me, sbagliata nel contenuto, perché loro propongono una tassazione progressiva di tutte le pensioni, che però di fatto tassa anche le pensioni sotto i 1.000 euro e tassa in maniera, secondo me, insufficiente le pensioni altissime. Però tecnicamente come si può fare? Perché come ha detto lei, il prelievo di solidarietà è già stato bocciato una volta, adesso c'è il rischio, e noi abbiamo avuto anche in questo caso il giudice che fece ricorso la prima volta, l'ha vinto e ha detto farò ricorso anche questa volta, ha già preannunciato e probabilmente vincerà. Quindi i cosiddetti diritti acquisiti come si tolgono? No, ma guardi, la Corte Costituzionale in realtà non ha dichiarato incostituzionale il prelievo richiamandosi al principio dei diritti acquisiti. La Corte dichiarò incostituzionale il prelievo perché non era stato fatto su tutti i cittadini, che significa che bisognava per loro essere fatto anche sui redditi da lavoro. Piccolo particolare, la Corte aveva già dichiarato incostituzionale anche lo stesso prelievo fatto sui redditi, quindi molto ci sarebbe da discutere sull'interpretazione della Costituzione che la Corte Costituzionale dà. Però nel caso della proposta di Fratelli d'Italia, poiché noi proponiamo banalmente il ricalcolo con il sistema contributivo, a me non sembra che il contributivo sia stato dichiarato incostituzionale, cosa che eventualmente si poteva fare, attenzione, proprio richiamandosi all'articolo 3 della Costituzione, che è quello a cui si richiama la Corte quando dichiara incostituzionale il prelievo, cioè tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, perché è evidente che l'ingresso del sistema contributivo rispetto al retributivo condannava milioni di generazioni ad avere una pensione assolutamente inadeguata rispetto a quelle che c'erano prima, ma non è stato fatto, e allora penso che si possano ricalcolare con il sistema contributivo anche le pensioni in essere. Senta, un'ultima cosa da chiarire prima di interloquire con Abruzzo, è il netto lordo, quando faceva riferimento prima alle cifre. Guardi, per ora noi parliamo del lordo, tenendo in considerazione che diciamo che i prelievi sui redditi sulle pensioni, chiedo scusa, sono più bassi quelli sui redditi, quindi parliamo sempre di una pensione netta che più o meno è intorno ai 3.800 euro. Però voglio dire, poi c'è una proposta di legge che si comincia a discutere questa settimana in commissione, che è la proposta di legge di Fratelli d'Italia, e ci sono oggi, scade la presentazione degli emendamenti. Se qualcuno volesse ridiscutere il tetto, sulla cifra non è questo, è chiaro, insomma, no, intanto ridiscutere euro. Io voglio tagliare quelle da 90.000 euro al mese, insomma il mio obiettivo è quello, e lo voglio fare con un sistema di giustizia che non faccia taglio lineare, ma che tenga conto dei contributi. No, ma guardi, di recente Franco Abruzzo ha fondato questa Unione Nazionale Pensionati per l'Italia. Abruzzo, lei ha fatto anche un'intervista molto, molto dura su Italia Oggi, dicendo c'è odio sociale. Quando c'è odio sociale, sono convinto che c'è odio sociale, c'è anche invidia sociale. Io difendo, come la onorevole Meloni, le pensioni costruite con il lavoro. Io ho lavorato 41 anni, io parlo con dei magistrati che hanno lavorato 50 anni e che hanno la pensione su 40 anni. Io dico questo, che con il sistema contributivo i magistrati raddoppiano con la loro pensione, mentre vengono represse quelle piccole, quelle dei cittadini normali che prendono poco prenderanno di meno. Quindi, per carità, si vuole andare sul contributivo, benissimo, si vada sul contributivo, ma il rischio, lo ha detto Selle, non l'ha detto Franco Abruzzo, cioè Selle ha ripreso uno studio del professor Visco e ha detto stiamo attenti che il metodo contributivo può essere un rischio, lo ha ripetuto in aula un collega dell'onorevole Meloni che è l'onorevole Galli, già direttore generale di Confindustria, che è uno che ne capisce di queste cose tecnicamente bene, quindi stiamo attenti. Quindi io faccio questa premessa, io difendo solo le pensioni costruite con il lavoro, certamente io non difendo come la onorevole Meloni i 509 cittadini che hanno delle pensioni da 20.000 a 91.000 euro, io non difendo le debite pensioni, ma non difendo nemmeno gli stipendi e le pensioni dei nostri parlamentari, di cui la onorevole Meloni non parla. Vogliamo parlare con dei privilegi, con dei parlamentari 16.000 euro al mese, più tutti i viaggi gratuiti, accesso al cinema. Quindi in questo dice c'è l'odio sociale. Cioè, parliamo dei deputati che vanno in pensione 3 anni, con 5 anni prendono 3.000 euro. Insomma, ma se parliamo con dei privilegi, i parlamentari nostri sono quelli che hanno più privilegi in Europa. Quindi lei dice, e non ne parla nessuno. Onorevole Meloni, un attacco, un contributo fortissimo alla lotta contro gli evasori, 280 miliardi, contro il sommerso, 400 miliardi all'anno, contro le mafie che amministrano 500 miliardi. Invece si usa l'arma della distrazione di massa per attaccare i pensionati, per non parlare delle omissioni del mondo politico verso le mafie, verso gli evasori. Abruzzo, questa è la verità dei problemi. Abruzzo, bisogna dire, cioè, della casta cosiddetta se ne parla anche tanto. Provvedimento, io ho pubblicato correttamente il disegno di legge della onorevole Meloni, perché quando si parla si fa informazione corretta, ma non c'è nulla contro i privilegi della casta. Addirittura nel 2011 il Ministero del Tesoro disse che non dovevano pagare il prelievo perché i parlamentari non sono dipendenti di Montecitorio e del Senato. Siamo arrivati a questa farsa, che non avevano il prelievo, che poi è stato abrogato anche per il pubblico dalla nostra Corte Costituzionale. No, però interessante. importante. Sono un cittadino della Repubblica, io chiedo di pagare come cittadini attivi, non ci posso, cioè se lo Stato ha bisogno di soldi, io sono pronto a fare la mia parte assieme a tutti i cittadini, cioè il prelievo non deve gravare solo sui pensionati, perché solo sui pensionati e non sui cittadini attivi? Ma questo tra l'altro è il motivo, è un valore fondamentale della nostra Repubblica. Ma infatti questo è il motivo per cui è stato bocciato la Corte Costituzionale. Però onorevole Meloni, se vuole replicare ad Abruzzo, che dice c'è una sorta di odio sociale, siete d'accordo sul fatto che anche Abruzzo difende coloro che hanno con tutti i loro contributi messo da parte i soldi per la pensione che meritano e non quelli che hanno delle pensioni esagerate? Mi sembra, diciamo, rispetto parlando, un po' contraddittorio, nel senso che se siamo d'accordo su chi prende delle pensioni in ragione dei contributi che ha versato, stiamo d'accordo sulla proposta, perché è esattamente la proposta di Fratelli d'Italia. Evidentemente, se il dottor Abruzzo, diciamo così, si chiude così a riccio rispetto a questa proposta, che è una proposta che dice devi avere una pensione sopra una determinata soglia, che sia chiaro, è una soglia sulla quale chi lavora oggi non arriverà mai. Perché noi di questo non teniamo considerazione. Noi non teniamo considerazione del fatto che nello stesso momento, in questo momento in Italia, ci sono due persone che fanno lo stesso identico lavoro, che lavoreranno una 40 anni e l'altra 50, 60, 55. La prima ha preso una pensione che era l'80% delle ultime retribuzioni, quindi una pensione decente. La seconda potrebbe non prendere una pensione decente mai. E noi non possiamo fare finta che questo problema non esista. Vede, il problema non è io prendo tanto in rapporto a, io prendo tanto in rapporto a quello che è seduto accanto a me. Allora, una pensione da 5.000 euro è una pensione che i giovani di oggi, ma anche chiunque è rientrato nel sistema contributivo, non avrà mai. È un problema o non è un problema? È un problema per me o solo per me, o è un problema dell'Italia, la giustizia sociale? Allora io chiedo semplicemente di verificare i contributi che si sono versati. Poi è possibile che aumenteremo queste pensioni, ma se il dottore Abruzzo è così convinto che sta difendendo le pensioni che si sono guadagnate con il lavoro, dovrebbe sostenere la nostra proposta. Però dice anche non sono così convinto. No, è chiaro, però Abruzzo dice anche non vede invece, appunto, vede solo un attacco, quello che ha definito odio sociale, ma invece non è fatto un attacco, è un ricalcolo. Io non ho fatto una proposta che dice tagliamo, punto. Io ho fatto una proposta che dice sopra una determinata soglia voglio sapere se ci sono i contributi corrispondenti, altrimenti la parte che cede mi sembra eccessiva. Okay? E come tutti i privilegi ingiustificati, mi permetta di aprire e chiudere una parentesi, sì, perché sul tema dei parlamentari e della cassa sono persona sensibile. Segnalo al dottor Abruzzo che anche sui parlamentari le cose sono cambiate e che mentre lui ha ragione da vendere sugli ex parlamentari, cioè su quelli che stavano un giorno in Parlamento e prendevano il vitalizio dal giorno dopo, adesso e non è più così. Non è però più 5 così, anni non è basta. Più così da quando io ero vicepresidente della Camera, con Bertinotti presidente, cambiamo il sistema una prima volta allora, che è stato ricambiato nella scorsa legislatura, dove anche i parlamentari sono entrati nel sistema contributivo e quindi non prenderanno affatto una pensione da 3.000 euro dopo una legislatura, perché stanno nel sistema contributivo. Allora, ci sono arrivati pure i parlamentari, penso che ci possano arrivare anche quel fior fiore di burocrati di Stato, di persone privilegiate più di chiunque in questa nazione, che fino ad oggi forse hanno avuto molto. No, ma questo sì, io so, noi l'onorevole Meloni la dobbiamo lasciare, però Abruzzo, poi continuiamoci a raggiungere anche Filippo Taddei, che è responsabile economico del Partito Democratico. Vuole dire ancora una cosa all'onorevole Meloni? Poi no, io chiedo all'onorevole Meloni un impegno con la passione che la contraddistingue contro le mafie, contro gli evasori. Guardi, che lo Stato italiano ha notificato cartelle esattoriali per 739 miliardi, ne ha incassato 69 di miliardi, e gli altri 670, perché non si a me basterebbe che si incassassero il 10% e noi qui non saremo qui a parlare delle pensioni. Il tema delle pensioni è stato sollevato dal mondo politico come arma di distrazione di massa per non farle parlare delle del mondo politico. Il tema è che viene utilizzato perché servono anche soldi, questa forse è comunque cioè è proprio un problema di giustizia. Allora, o l'Italia decide a un certo punto di dire basta a due Italie che convivono nello stesso momento e quindi dà un segnale di giustizia. Non ci sono due persone che in ragione della loro generazione sono una con tutte le garanzie e esclusa da tutte le garanzie. O si fa passare questo principio, o semplicemente l'Italia non si salva perché la gente non ci crede più. Dopodiché al dottor Abruzzo dico che le battaglie che lui mi invita a fare con la mia, diciamo, solita passione già le faccio, che la denuncia per cui lo Stato ha condonato miliardi e miliardi di euro di evasione fiscale alle società delle slot machine è una denuncia che ha fatto Fratelli d'Italia, per esempio. Che noi non utilizziamo armi di distrazione di massa, semplicemente vorremmo occuparci dei tanti problemi di ingiustizia che ci sono in questa nazione, compreso quello delle pensioni d'oro. Compreso questo. Io intanto la ringrazio, onorevole Giorgia Meloni. Andiamo a sentire la pubblicità. Due minuti, rimane con noi Franco Abruzzo fino alle 9. Vorrei anche le telefonate degli ascoltatori su questo tema. Il numero è 800 24 00 24. Riprendiamo tra tre minuti. Con noi ci sarà, oltre a Franco Abruzzo, come detto, anche Filippo Taddei, che è responsabile economico del PD nella segreteria del Partito Democratico. 24 mattino. Eccoci qui alle 8:37, rientriamo in diretta, parliamo dunque di pensioni d'oro insieme a Franco Abruzzo, che è presidente dell'Unione Nazionale Pensionati per l'Italia. Con noi è stata l'onorevole Giorgia Meloni, che abbiamo salutato poco fa. Ci ha raggiunto Filippo Taddei, che è responsabile economico del partito, della segreteria del Partito Democratico. Buongiorno Taddei e benvenuto. Buongiorno. Eccoci buongiorno. Qua. Fatemi sentire due ascoltatori. Michele da Napoli, buongiorno Michele. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Che dice? Premetto che sono di un'area, diciamo, di politica di tutt'altro verso rispetto all'onorevole Meloni, però devo dire che è molto difficile contrastare ciò che lei molto lucidamente espone. Se c'è un rilievo da fare è che probabilmente la soglia di 5.000 euro è troppo alta. Cioè, vorrei premettere, noi stiamo parlando qui di soldi che i pensionati non hanno maturato, cioè è come se noi stessimo dando soldi pubblici a persone che non ne hanno bisogno. Vabbè, però con questo principio allora lei toglierebbe le baby pensioni da... No, io limiterei le pensioni ad una soglia di dignità, premesso che non sono soldi che hanno guadagnato, che si è guadagnati. Guardi, tenga conto che la spesa pensionistica oramai ha raggiunto un terzo della totale spesa pubblica, con effetti evolutivi impressionanti. Beh, certo, sì, si invecchia sempre più. Perché delle nuove misure andranno in onda tra 30 anni. Ma lei, quindi lei cosa farebbe? Possiamo continuare a spendere soldi, a pagare, scusi, le pensioni di chi non però lei soldi. Michele è anche d'accordo che se uno guadagna di pensione, che ne so, 10.000 euro al mese, ma perché ha versato tutti i contributi, è giusto certo, che se le tenga? Questa è la premessa dell'onorevole Meloni, su questo non c'è dubbio, ma le posso assicurare che il 95% delle prestazioni pensionistiche è al di fuori di questo riferimento. E tenga conto che con le garanzie che noi diamo, che sono giuste d'altronde, come del resto la reversibilità e l'aumento medio della vita, questi sono effetti che ci porteremo avanti per oltre 30 anni. Ah, ma è chiaro, cioè, non c'è è la possibilità. Vabbè, insomma, lei mi pare no, aspetti, se no Michele non riesco a dare spazio a tutti. Mi pare di essere che sia sostanzialmente d'accordo a quello che diceva l'onorevole Meloni. Marco da Venezia, buongiorno Marco. Sì, dottor Milan, buongiorno. Dico. Sono un giovane 38enne di Venezia che probabilmente la pensione non la vedrà mai. Sì, tolga anche probabilmente. Anche, sì, esatto. Dica, Marco. Io sono all'inizio, sentivo prima l'onorevole Meloni, io non chiamo mai, ma questa mattina ho voluto chiamare dica. Perché settimana scorsa in Parlamento, mi sembra il Movimento 5 Stelle abbia fatto una mozione per abolire o perlomeno regolamentare le pensioni d'oro. E tutti i partiti hanno votato contro. Anche l'onorevole Meloni, anche Fratelli d'Italia ha fatto una mozione, erano 7 le mozioni credo più o meno simili. Sì, io glielo dico perché nei social sono il Movimento 5 Stelle postano le foto ogni giorno delle votazioni che vengono fatte in aula e come sempre c'è lo spicchio tutto rosso tranne lo spicchio verde del Movimento 5 Stelle. Io mi domando come mai continuano ad andare in radio, in televisione a dire il tutto al contrario di tutto. Guardi, però allora non fanno niente di concreto. No, ma è chiaro, Marco, è stato chiaro. L'ha detto l'onorevole Meloni, loro hanno presentato una mozione, Fratelli d'Italia, il Movimento 5 Stelle ha presentato una sua mozione e quindi ha votato la sua, cioè, ognuno ha votato la sua mozione che però non è passata a maggioranza, non capisco in questo caso cosa sia la critica, però chi non ha votato la mozione per esempio è il Partito Democratico, saluto appunto Filippo Taddei, perché non avete votato la mozione o le mozioni che prevedono la rimodulazione delle cosiddette pensioni d'oro, Taddei? Dunque, non certo perché si discuteva il principio che è piuttosto sacrosanto, come hanno sottolineato anche gli ascoltatori, ma perché vorremmo cercare di evitare quello che il dottor Abruzzo sottolineava in una parte del suo intervento che sono riuscito a sentire prima, tra l'accompagnamento delle bambine a scuola e il trasferimento qui, e cioè che stiamo dando questa immagine che andiamo per provvedimenti estemporanei, per grattare sacchi di spesa quelli. Ora, alcuni di questi provvedimenti hanno una logica sana sia da un punto di vista dell'efficienza che dell'equità, come quello specifico. Poi ci sono delle questioni tecniche che magari se vuole approfondiamo, ma il tema fondamentale è che se noi vogliamo offrire a questo paese un po' di speranza e non solamente spaventare i singoli gruppi, è qual è il piano complessivo per cui facciamo tutto questo. La mia raccomandazione, quindi la raccomandazione del Partito Democratico, quello che il Partito Democratico cercherà di fare nelle prossime settimane, se vuole anche la logica del Jobs Act complessiva, è esattamente quella di dire: benissimo, chiediamo sacrifici ad alcuni gruppi, facciamo alcuni tagli, ma tutto questo rientra poi in un piano complessivo che cambia non dare la sensazione appunto di andare a colpire Abruzzo, ha sentito la sensazione di non voler andare a colpire le singole categorie, in questo caso i pensionati, poi in un altro caso potrebbero essere altri tipi di categorie. Le piace questa impostazione, Abruzzo? Recuperato le sentenze della nostra Corte Costituzionale. E che dicono? Che dicono che non si possono tassare soltanto i pensionati. Infatti, lì il punto centrale, cioè l'uguaglianza. Cioè io sono sorpreso che il mio Parlamento, io appartengo a una generazione alla quale è stato insegnato a scrivere Parlamento con la P maiuscola, il mio Parlamento che non osserva che vengono presentate delle mozioni in contrasto con la Costituzione e con i giudicati costituzionali, ma siamo impazziti, siamo. Ora il 27 noi andiamo a discutere la proposta di legge della onorevole Meloni, che è la stessa mozione che è stata bocciata l'8 gennaio. Ma insomma, ma perdiamo tempo su questa cosa? Ma quando le dicono e se le dicono che è un pensionato d'oro, lei si arrabbia? No, io non mi arrabbio proprio. Io prendo i soldi che mi sono meritato. Cioè, la pensione, come Taddei sa, è uno stipendio differito. Io ho versato i contributi, cioè le mie aziende il giorno prima, il sole dopo, hanno pagato i contributi, ho pagato le tasse. Oggi io sulla mia pensione, un terzo della mia pensione va allo Stato sotto forma di tassa. E che devo fare di più? Io dico, pagavo, avevo una aliquota marginale quando lavoravo del 43%, che ce l'ho ancora oggi da pensionato. Io pagavo l'8,69, la mia azienda pagava il 24%, cioè io ho versato per la mia pensione il 33%, ma cosa vogliono di più? Taddei, come versi tu? No, tu ma è chiaro. Paga la stessa cosa, il sole 24 ore paga quello che pagava per me. Taddei, la questione, io lo citavo anche prima l'onorevole Meloni e lei ha detto insomma non è proprio così, ma io ricordo quando ho avuto l'onorevole Guttgeld che mi ha fatto lo stesso tipo di discorso, cioè il Partito Democratico vuole andare nella direzione per cui si fa un ricalcolo della parte della pensione che eventualmente fosse eccedente il calcolo contributivo per rivedere il tutto. Ma allora più o meno è lo stesso discorso, perché non viene fatto? O è vero, è così? È questa la direzione? Allora, innanzitutto un paio di cose. Allora, innanzitutto il discorso che faceva il dottor Abruzzo è corretto, ma non è centrato, mi permetta. Ora, il punto non è quanti contributi ha versato il dottor Abruzzo, ma se la pensione è in linea con i contributi versati. Il caso specifico del dottore può essere assolutamente una pensione in linea. Il fatto è che noi sappiamo che questo non è il caso per molti lavoratori. Quindi non c'è nessuna, vorrei essere massimamente chiaro su questo, non c'è nessuna ostilità da parte del Partito Democratico verso il principio. Anzi, è un principio che io ho detto prima, è sacrosanto, quello che il principio del contributivo, che le pensioni si pagano con i contributi, ma quelli versati dal lavoratore, naturalmente parliamo di pensioni, oltre una certa soglia, come sa benissimo le pensioni minime non sono per loro definizione pensioni che non sono sostanziate dai contributi, ma nessuno vuole toccare le minime, qui parliamo di pensioni elevate, quindi questo è il primo punto fondamentale. Il secondo tema è vero che esiste una sentenza della Corte Costituzionale, ma quella sentenza, siamo specifici su che cosa dice. Questa sentenza dice, primo, non si possono utilizzare questi contributi per finanziare altre cose che escono dal sistema pensionistico, e noi diciamo, benissimo, utilizziamo quei contributi per che cosa? Per ribilanciare il sistema pensionistico. Pensi attualmente nell'attuale legge di stabilità cosa abbiamo approvato? Abbiamo approvato i contributi di solidarietà che valgono per certe pensioni che sono moltiplicatori della minima, sì. 15 volte la minima, 20 volte la minima. Lì non c'è nessun riferimento ai contributi, ma ci sono all'ammontare della pensione. Quindi magari stai attassando una persona che ha versato, come il dottor Abruzzo, contributi in abbondanza, ha una pensione allineata, però gli chiedi un contributo. Perché quel provvedimento non sarà incostituzionale? E non perché quei soldi vengono utilizzati per che cosa? Per le pensioni. Ma è solo questo? Perché l'altro punto della Corte Costituzionale è che diceva che viene fatto solo per alcune categorie e non per altre. Quindi questo è un altro punto di incostituzionalità. Attenzione, ma dipende lei che cosa, come lo considera. È questa una tassa o è questo un riallineamento tra quello che sono i benefici, cioè la pensione, e i contributi effettivamente versati? Ora, noi abbiamo qui un problema tecnico, le dico, sui contributi versati. Noi non sappiamo, cioè o meglio, l'INPS non ha un'idea precisa di quali sono i contributi dei individualmente versati dai lavoratori dipendenti prima del 76 e di quelli pubblici prima del 96. Ma c'è dal 2001, non da ieri, dal 2001, c'è un metodo per naturalmente affrontare il problema, che è il metodo del cosiddetto forfettone. È già legge dello Stato, c'è già un decreto attuativo, esistono già gli strumenti legislativi. Non confondiamo un errore, come posso dire, di tecnica legislativa con l'affermazione di un principio giusto. Allora chiedo politicamente perché, però aspetti, questa domanda gliela devo fare dopo le informazioni sul traffico, cioè continuo però a ritornare alla domanda principale, cioè siccome in linea siete con quello che ha proposto il Movimento 5 Stelle, mi sembra di capire, con quello che ha proposto l'onorevole Meloni, è perché non è stato già fatto. Tra un attimo. Allora, alle 8:49 minuti, la questione è questa. Lei, Taddei, ha detto, cioè io non ho capito perché appoggiare una delle mozioni che è arrivata la scorsa settimana sarebbe apparso, come ha detto lei, una sorta di accanimento verso alcune categorie, invece una riforma più complessiva. Però con queste riforme c'è il rischio, sai, che gli italiani poi dicono non si vede niente di concreto all'orizzonte. Guardi, non è che sto sparando la palla in tribuna, sto dicendo però che questo tipo di cambiamenti, di riforme, si fanno in un progetto complessivo, per cui se ne fanno vari e si utilizzano quelle risorse, perché sennò altrimenti si scatena esattamente il dibattito che si è scatenato qui con lei. Cioè, io dico pensioni, il dottor Bruzzo dice evasione, l'altra persona dirà taglia la spesa, invece se cosa facciamo noi, o cosa proviamo a fare almeno? Proviamo a fare un progetto complessivo in cui le diciamo tutte e tre le cose, si fanno tutte e tre le cose, così nessun italiano nessun interesse che verrà danneggiato, alcuni interessi verranno inevitabilmente colpiti da questa cosa, si sentirà, come posso dire, la vittima predestinata di una discrezionalità, ma è il risultato di un progetto complessivo che ha come obiettivo quello di fare una cosa poi molto semplice, che è prendere il lavoro di questo paese, prendere le tasse sul lavoro di questo paese, ridurle e dargli una spesa pubblica più efficiente. Lei mi dirà, oh certo, l'hanno detto tutti, queste cose qui le abbiamo sentite centinaia di migliaia di volte, ho capito, però bisogna rendersi conto che o c'è un solo modo di procedere per avere successo in queste cose, o si va con un progetto organico di riforma, oppure andiamo per micromozioni. Le micromozioni non funzionano. Sì. Le faccio anche un esempio storico per avere un'idea di come questo è il metodo vincente. La più grande ondata di liberalizzazione che c'è stata in questo paese, la Bersani, non a caso fu una lenzuolata. Perché? Perché non si voleva dare il senso che si colpiva il singolo interesse o la cosa, ma che c'era un progetto complessivo di liberalizzazione del paese. Mi permette di dire che noi abbiamo l'ambizione di fare la stessa cosa. Sì. E tutto questo orientato naturalmente a che cosa? Al lavoro. Poi la credibilità di questo annuncio, di come posso dire, la testiamo quando lei mi invita tra qualche giorno. No, ma è chiaro, vediamo. Intanto Abruzzo, insomma, ha sentito, non è che io non noto questo accanimento come invece lei ha parlato di odio sociale addirittura, non mi sembra che ci sia. A una condizione, che l'Inbis, come devono dare tutte le mie carte, io non ce le ho, io i miei stipendi di fine anni 60 sì. o di inizio anni 70, io non li ho, Perché dico questo? Perché io come cittadino ho il diritto di difesa, che è un diritto inviolabile, io mi devo poter difendere dall'attacco dell'amministrazione. Ma l'Unione Nazionale... Ma l'Inps e l'Inpigi hanno le carte. Però chiedo, l'Unione Nazionale Pensionati per l'Italia, perché? Cioè c'è bisogno di fare un embrione di partito? È un movimento politico-culturale che vuole dare coscienza ai pensionati che non sono un volgo che nome non ha. Uso le parole di Manzoni per gli italiani dei secoli bui. Noi non siamo un volgo che nome non ha, siamo dei cittadini che pretendiamo di essere trattati come quelli che lavorano, tale quale. È solo che alcune volte sono stati trattati, alcuni sono stati trattati con i guanti d'oro. Bada Milan, quelli che prendono da 20.000 a 91.000 euro al mese sono 509 persone, sono regali della politica. Anche noi non c'entriamo nulla, certo. No, noi veniamo con quelli che hanno lavorato per 40-50 anni. Un magistrato mi ha detto che se si passa al nuovo calcolo lui prende il doppio. Va bene questo? Penso, va bene questo? Penso, ma quelli che vengono lo studio di Visco e Paladini, pubblicato sul Sole 24 Ore anche, dice che quelli che vengono massacrati dal nuovo metodo sono quelli che prendono poco, non quelli che prendono tanto. Taddei, su questi calcoli effettivamente non c'è il rischio che poi facendo tutto col contributivo c'è gente che prende di più, quelli che vengono additati come coloro che sono i pensionati d'oro rischiano di prendere di più addirittura di quello che prendono? Questi calcoli li avete già fatti, Taddei? Guarda, sì, gli stiamo facendo, diciamo che, ma se anche fosse che noi troviamo che c'è un pensionato che prende 5.000 euro al mese, che non merita, e poi ce n'è uno che ne prendeva 4.500 che ne meritava 5.500, in linea con i suoi contributi, lei sarebbe contrario? Pensa che sia contrario all'equità? Io mi permetta comunque di dire che quello che noi osserviamo, quello che noi stiamo vedendo, facendo le nostre stime, è che la stragrande maggioranza però di queste discrasie soprattutto sarebbero vincolate per legge al di sopra di una certa soglia, quindi non è che andiamo a colpire il pensionato che fa i 1.200 euro. No, questo è chiaro, questo ci mancherebbe. Però qui c'è un problema di equità orizzontale, cioè noi abbiamo dei pensionati che prendono molto e tra di loro ce ne sono alcuni, guardate un po', magari stanno penalizzati, magari c'è il magistrato di cui parlava il dottor Abruzzo, però nel complesso non stiamo a raccontarci delle storie, nel complesso sembra che quel gruppo di pensionati sia molto meno che penalizzato, anzi abbia beneficiato di un sistema pubblico che li ha remunerati più degli altri cittadini. Allora noi o ripristiniamo questo concetto di semplice equità, cioè che tutti vengono remunerati nella stessa maniera, cioè il mio contributo conta come il contributo dell'altro cittadino, oppure questa cosa è politicamente insostenibile, e aggiungo di più, per naturali e ovvie ragioni. Non solo politicamente ma anche dal punto di vista dei conti pubblici diventa insostenibile. Sentirei anche Giovanni da Roma, ci ha chiamato. Giovanni, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, dottore. Io sono un cosiddetto pensionato d'oro, sono un comandante dell'aviazione in pensione, ho volato per 40 anni e ho una pensione appunto che viene definita con questi parametri che ho sentito d'oro. Cioè? Ce la vuole dire? Io per rispetto a tanti altri colleghi che sono miei coetanei vorrei rispettare la loro privacy, ma insomma è facilmente ottenibile il concetto, però vorrei non esprimere, pensione da 20.000 euro al mese, è una pensione che è circa un quarto di questo valore. Che pensa di questo dibattito? No, io dico questo, che la pensione che io ho maturato, ma che tante altre persone hanno maturato, non è un bene mafioso che può essere sequestrato dalla sera alla mattina, è frutto di un rispetto delle regole, delle leggi, delle marchette. Il mio paese mi ha chiesto in tutti questi anni, nel mio caso fino al 95 è stato retributivo, dopo è diventato contributivo. Ma io quello che voglio dire, non è accettabile che questa pensione sia sottoposta al libitum di un fascina che si sveglia al mattino e mi chiede il 6%, e perché non il 20% o perché non il 25%? Guardi, allora, però, Giovanni, se no sforo. Guardi, io le prometto che riprendiamo questo tema. La volevo solo tranquillizzare se lei è inquietato da Fassina, che adesso non c'è più. Ma mi devo fermare qui. Ringrazio Filippo Taddei e Franco Abruzzo. Riprenderemo il tema, ve lo prometto, perché è molto caldo. Alla prossima volta, intanto a domani. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.